figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto, benvenuti a questo appuntamento con il sociale di Radio 24, il Sole 24 Ore, puntata tutta incentrata oggi su temi esteri. Innanzitutto andiamo in Francia, dove proseguono ormai da ottobre le proteste dei sans-papiers, lavoratori senza permesso di soggiorno, che hanno occupato appunto da 5 mesi la sede di un'agenzia di lavoro interinale e i locali del fondo assicurativo per gli artigiani e i muratori. 24 ore su 24 questi locali sono presidiati da questi migranti che lavorano ma non hanno il permesso di soggiorno, che si alternano appunto in questo sit-in. Igor Fiatti ha intervistato per noi Raymond Chavet, che segue il dossier sans-papiers per la CGT, il principale sindacato francese. Al momento in Francia ci sono 10.000 lavoratori sans-papiers che scioperano dallo scorso mese di ottobre. Esigono che il governo permetta la loro regolarizzazione e questo movimento è una continuazione di quello che nel 2008 ha portato alla regolarizzazione di oltre 2.800 immigrati. La situazione dei sans-papiers non si è venuta a creare oggi. Su questo tema l'ipocrisia è generale. Non è un'esclusiva di questo governo, ma ha caratterizzato anche i governi precedenti e la società. Attualmente però il movimento dei sans-papiers è popolare. La gente non capisce perché persone che pagano regolarmente i contributi non debbano avere il permesso di soggiorno. Lo scopo del movimento è semplice. Noi non possiamo continuare ad accettare che nel nostro paese ci siano dei lavoratori senza diritti. Non dobbiamo continuare ad accettare che una parte del mondo del lavoro in Francia sia composta da persone non in grado di dire e fare qualcosa contro le condizioni di lavoro imposte. Dobbiamo assolutamente arrivare al punto di garantire a questi lavoratori sans-papiers gli stessi diritti dei lavoratori francesi. Oggi il movimento sans-papiers è molto molto popolare. Malgrado la crisi economica, non ci sono infatti reazioni xenofobe di sorta. Tutti quanti capiscono che siamo di fronte a dei lavoratori senza diritti che lavorano al nostro fianco. Insomma, non stiamo riscontrando resistenze. Inoltre, su questo tema, sulla realtà del lavoro dei sans-papiers, un gruppo di cineasti ha appena realizzato un cortometraggio che può essere visto sia in rete sia nelle sale cinematografiche. Anche grazie a tale contributo, pensiamo così che la gente sarà ancora più sensibile al problema di questi lavoratori. Il y en a qui sont des conducteurs dangereux. E la voce che sentite è proprio quella dei lavoratori senza permesso di soggiorno in Francia. Sgobbiamo qui, viviamo qui, restiamo qui. Così si intitola un cortometraggio che li vede protagonisti e che sta passando nei cinema francesi dal 10 di marzo, oltre che su internet. Dà la voce ai lavoratori senza permesso di soggiorno, muratori, carpentieri, baristi, cameriere, operaie, che elencano i posti dove hanno lavorato. Multinazionali, grande distribuzione, cantieri che lavorano per enti pubblici o imprese private. Tutti utilizzano manodopera clandestina. Il solo papier che mi manca è la carte di soggiorno. On est sans droit, les travailleurs sans droit. Pour nous, con la maladie, obligé d'aller travailler quand même. J'ai payé 500 euros à cause de mon bras. Il corto non è firmato da un regista indipendente o immigrato, ma da un collettivo di 350 importanti cineasti francesi. On travaille. On construit la France comme tous les Français. On a trouvé la fraternité avec les Français, par contre on n'a pas trouvé l'égalité avec l'État. Abbiamo contribuito a rendere grande la Francia, ma non abbiamo trovato la libertà, dice un lavoratore. E nel film viene anche citata l'Italia come esempio invece positivo per quanto riguarda alcuni condoni, regolarizzazioni che sono stati fatti per sanare delle situazioni di irregolarità di lavoratori che erano presenti nel territorio italiano, lavoravano regolarmente come badanti o altro, ma non avevano appunto il permesso permesso di soggiorno. E restiamo a temi esteri. È montata nei giorni scorsi una forte protesta, scatenata da un reportage della BBC su un evento di molti anni fa. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Probabilmente avete riconosciuto questo sonoro, appartiene al Live Aid, all'evento rock che si tenne il 13 luglio 1985 contemporaneamente in diversi paesi, organizzato dal cantante Bob Geldof allo scopo di ricavare dei fondi per alleviare la carestia che aveva colpito l'Etiopia. You've got to get on the phone and take the money out of your pocket. Don't go to the pub tonight, please. Stay in and give us the money. There are people dying. Now, so give me the money. È stato uno dei più grandi eventi rock della storia. Si stima che 1,5 miliardi di telespettatori lo abbiano seguito in tutto il mondo. Ma fu anche uno dei più grandi eventi di beneficenza di tutti i tempi. La raccolta fondi inizialmente aveva come obiettivo 1 milione di sterline, ma fu abbondantemente superata questa soglia. Nel conteggio finale figurarono 150 milioni di sterline, pensate, circa 245 milioni di dollari. Cosa succede ora? Succede che, secondo un reportage della BBC, gran parte di questi fondi, circa 100 milioni di dollari, vennero utilizzati non per alleviare la carestia e quindi comprare medicine e cibo per la popolazione etiope, ma pensate, per comprare armi per l'esercito di Mengistu Haile Mariam, l'ex dittatore etiope. BBC. You're with the BBC. Now on the BBC World Service, it's time for assignment. 25 years ago, an international rock concert, Live Aid. I giornalisti della BBC accusano i ribelli di aver sottratto qualcosa come il 95% dei fondi raccolti. E per avvalorare questa tesi hanno portato anche le rivelazioni di due ex ufficiali di questo fronte di liberazione e la testimonianza dell'allora direttore delle operazioni d'emergenza Nick Gutman. We were using aid money to buy arms, you know. If you come to the Middle East, you can buy arms if you have the money. So we were using some of the money to buy arms. Non è in realtà un'accusa molto nuova. Già nel 2005 il giornalista Bill O'Leary della Fox News aveva parlato della possibilità che una parte di questi fondi fossero finiti proprio nelle mani di questo fronte di liberazione, di guerriglieri etiopi. Però mai c'erano state delle testimonianze vere e proprie a sostegno di questa tesi e mai nessuno aveva detto che addirittura il 95% dei fondi fosse finito in mano improprie, per così dire. There is not, let me be specifically clear, not a single shred of evidence that Band-Aid or Live Aid money was diverted in any sense. It could not have been. Stupidaggini, ha commentato l'organizzatore della manifestazione Bob Geldof, che assieme ad alcune ONG nega con forza queste accuse e sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal servizio della TV pubblica britannica, neanche un penny, ha detto, è stato speso in armi. Ma è possibile che quando vengono fatte queste raccolte di fondi per situazioni di emergenza, che una parte di questi soldi finisca impropriamente in mani sbagliate? Lo abbiamo chiesto a Gianni Milesi del CESVI, che si occupa di cooperazione in Italia da moltissimi anni. Ma sicuramente ci sono dei rischi fortissimi in questi momenti. Voglio dire, le persone armate di solito attaccano i convogli umanitari, umanitari, per cui abbiamo questo problema per esempio dei trasporti, dicevo prima che la cosa più importante è conoscere direttamente i beneficiari. Abbiamo anche dei problemi di sicurezza, anche noi siamo stati esposti, non è stato il caso dell'Etiopia, però io ricordo in Albania che abbiamo dovuto salvare faticosamente con una lunghissima mediazione un camion da una banda armata di Kalashnikov che l'aveva fermato e conteneva gli aiuti. Noi abbiamo un fondo proprio per affrontare queste situazioni. In Afghanistan abbiamo subito un furto all'inizio del nostro intervento, quando le banche non funzionavano ancora, avevamo dovuto far circolare del denaro contante e siamo stati, il nostro compound è stato assaltato a Mazar el Sharif. Cioè esistono, abbiamo dei fondi, abbiamo delle misure di sicurezza, abbiamo un manuale di sicurezza proprio perché sappiamo che operiamo in queste zone di guerra. Questo è veramente l'area più critica, dove le nostre finalità devono essere costantemente monitorate da organi indipendenti. Guardi, per quanto riguarda noi, addirittura all'interno della stessa struttura, il direttore dei progetti non è il solo a decidere le misure di sicurezza, ma c'è un altro direttore che è responsabile proprio delle misure di sicurezza, che ha un potere assoluto anche sul personale e sulle scelte che dobbiamo fare. Quindi si controllano l'un con l'altro, diciamo? L'un con l'altro, cioè il potere non viene dato solo al direttore dei progetti, che è a capo degli interventi umanitari del CESU, ma a un altro direttore che risponde. E poi comunque tutta la struttura operativa è controllata da un consiglio d'amministrazione e da un comitato dei garanti, che sono organi fatti di volontari, quindi non pagati dall'organizzazione, e che hanno anche una loro reputazione da difendere. Quindi il consiglio che possiamo dare a chiunque, ai donatori, è di stare ben attenti sempre alla reputazione della ONG alla quale si affidano i propri denari, e controllare sempre che sia all'altezza, insomma. Assolutamente, sono appena uscite le linee guida per l'applicazione del bilancio cosiddetto sociale. Noi nel nostro caso lo chiamiamo bilancio di missione, noi dal 2002 abbiamo un bilancio dove vengono pubblicati addirittura tutti gli organi sociali, cioè come quello che in termine tecnico si chiama la governance, cioè come l'organizzazione è guidata e come è controllata. Torneremo sull'argomento ancora per approfondirlo, invece l'appuntamento con noi è sempre per domenica prossima 14:15 sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un buon pomeriggio da Valentina Furlanetto.